24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Quando tu torni dopo un lungo viaggio in quella che ritieni casa tua, è un'emozione che non ha paragone con niente. Una città che è abituata a scorgere nella bellezza il tratto distintivo della propria identità. La Torre d'Arnolfo, la Loggia dei Lanzi, Leonardo e Michelangelo, Dante Alighieri, quella cupola straordinaria, unica. Ehi, noi siamo Firenze. La bellezza del Vasari, del corridoio vasariano. La bellezza delle basiliche di questa città. San Miniato, che sembra cullare Firenze dall'alto. Palazzo Medici Riccardi, la Basilica San Lorenzo. Una città in cui siamo abituati a litigare su tutto. Però questa città sa riconoscersi in dei valori fondamentali. Mi sono convinto ogni giorno di più che quello che io ho imparato dalla bellezza di questa città, ma dalla bellezza delle persone che ne fanno parte, è molto di più di quello che ho ricevuto. Noi vogliamo talmente bene a questa città che pensiamo che lo slogan di Dario, Firenze più di prima, sia bellissimo. Allora, sindaco Dario Nardella, buongiorno. Firenze più di prima. Bello lo slogan, ma chi l'ha pensato? Buongiorno Minoli, buongiorno radioascoltatori. Beh, è un bello slogan, ci ha portato fortuna, è uscito da una delle tante bellissime riunioni del mio team, dei ragazzi straordinari che non finirò di ringraziare, sono stati loro a darmi questa idea. Senta, è quasi come una sfida, come il Matteo Chi di ieri sera da Lidl Gruber. Beh, una battuta, anche perché riferita appunto al nome del mio terzo bimbo, ma... Che è nato ieri, no? Che è nato ieri, sì, emozione dopo emozione. No, sì. Ma io ho detto che il sindaco di una città, e Firenze in particolare, deve sempre avere l'ambizione di far meglio di chi lo ha preceduto, è quello che meritano i cittadini. E quindi fare Firenze più di prima. Senta, però ha preso più voti di Renzi, è stato sorpreso? Beh, certamente non era facile prendere più voti di Renzi, comunque anche merito di Renzi, perché il successo delle elezioni è un mix di fattori. Il primo, il buon lavoro fatto in questi 5 anni, sul quale ci hanno giudicato i fiorentini. Certo. Il secondo, la spinta del voto delle europee, di cui il segretario, il Presidente del Consiglio è stato protagonista. E il terzo, il nostro progetto per il futuro, che ha convinto molto fiorentini. Di più. Senta, da Firenze a Roma e ritorno, è stata un'attrazione irresistibile? Beh, direi di sì. Firenze quando chiama è irresistibile, è una sfida troppo bella. Senta, ma cosa le resta dell'esperienza romana, della politica romana? Tutta negativa o no? Beh, da un lato una Roma malata, una Roma, un muro di gomma che resiste ad ogni cambiamento, e questo mi ha fatto capire quanto la politica abbia bisogno ancora di forza, di energia e di coraggio. Dall'altro però ho certamente imparato a vedere il paese dal punto di vista della capitale, un osservatore senz'altro privilegiato. E quindi è utile anche per fare meglio il sindaco, insomma. Assolutamente conoscere sì. Le leve con le quali poi si dovrà confrontare, ecco. Certo. Lei ha vinto anche perché ha rischiato, lo dicono tutti, si è dimesso prima delle elezioni, una cosa abbastanza insolita. Era pronta a tornare a suonare il violino? Sì, l'ho detto più volte, si ricorda, l'ho detto anche a lei, penso che i fiorentini abbiano colto il senso di questo gesto. I politici devono essere un esempio per gli altri e non chiedere sempre agli altri di rischiare per primi. Ecco, ma sindaco Nardella, la sua campagna è stata efficace anche perché nuova, cioè fondata sull'ascolto organizzato. Che cos'è? In due parole, cosa vuol dire ascolto organizzato? Ma io dico sempre che ascoltare senza decidere è impotenza, decidere senza ascoltare è prepotenza. L'ascolto organizzato è un modo di partecipare alle scelte che comunque competono a chi governa la città e devono essere fatte a costo di rischiare e di sbagliare. L'ascolto organizzato è un metodo che abbiamo sperimentato in campagna elettorale. Ma è un metodo permanente? Esatto, che io intendo portare avanti per tutti questi 5 anni in tutti i quartieri della città, coinvolgendo cittadini, commercianti, imprenditori, nel portare in fondo le decisioni per la nostra città. Vabbè, vedremo se è vero, la seguiremo su questo. Senta, parliamo di cose da fare. ha promesso un piano regolatore di 400.000 metri cubi costruiti. Vuole cementificare Firenze? No, nella maniera più assoluta. In questi cinque anni abbiamo approvato il piano strutturale a volumi zero, nei prossimi mesi il piano regolatore, che si chiama qui regolamento urbanistico, è stato approvato, sarà adottato, completeremo così tutto il percorso di pianificazione urbanistica. La parola d'ordine è niente cemento in più, ma riqualificare i volumi dismessi. Abbiamo 1.400.000 metri quadri di volumi di contenitori inutilizzati. Senta, sì. Ieri era l'anniversario delle bombe della mafia in via dei Georgofili. Vista l'esperienza dell'Expo, ha paura di infiltrazione in un progetto comunque di riqualificazione che riguarda molti soldi? Non bisogna temere la mafia e non bisogna sottovalutarla, questo vale per l'Expo e varrà per tutti gli altri grandi appuntamenti che avremo in Italia, penso anche al G8 a Firenze nel 2017. Per questo è necessario avere regole chiare, semplici ma estremamente efficaci, e questo ci ha insegnato la strage dei Georgofili. Ecco, senta sindaco Nardella, avete promesso anche il nuovo stadio da fare con Diego Della Valle, per quando sarà pronto? Beh, noi siamo pronti a partire non appena arriverà una proposta da parte del privato che vorrà realizzarlo. Abbiamo già predisposto l'area nel nord-ovest, la cosiddetta Mercafir. Ci mi auguro davvero che la Fiorentina compia questo passo decisivo. Insomma, la Fiorentina compia la Juve. No, come no? Lo so che a lei piacerebbe, ma come ha detto Diego Della Valle, se ricordo bene, proprio a Radio 24 il nostro modello è il Bayern. Ah, vabbè. Senta, Monaco. Senta, lei tenterà di associare Forza Italia al governo di Firenze? Ma guardi, Forza Italia è ridotta al lumicino qui a Firenze. Più che associare Forza Italia, il mio obiettivo è conquistare gli elettori di Forza Italia. E i grillini? Lo stesso vale per i grillini. Abbiamo vinto queste elezioni perché siamo andati sul loro terreno. Renzi ha fertilizzato un terreno arido dell'odio che aveva costruito Grillo. Senta, la sua lista civica ha avuto il 9% dei voti. A cosa è dovuto? Secondo me è una voglia di ritornare a occuparsi delle questioni della propria comunità, il senso civico, che non necessariamente deve cominciare con un'adesione a un partito. Molti fiorentini hanno fatto questo. Ma pescherà lì i suoi assessori? Non l'ho ancora deciso. Quando ci sarà la giunta? Quando ci sarà? Beh, avevo preso tempo all'indomani delle elezioni, una settimana, e quello è l'obiettivo. Quello sarà. Senta, Firenze è stata anche la città simbolo della pace con il sindaco La Pira. Senta qua. Rullano i tamburi, sventolano i confaroni della città di Firenze, che ospita un convegno dei sindaci giunti dalle capitali dei cinque continenti. Apertura dei lavori nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Le città capitali di tutto il mondo convenute a Firenze si ripromettono reciproca amicizia e pace. Città come Firenze non sono dei musei, sono delle grandi esperienze storiche che la provvidenza provoca, destinate a rilanciare su tutto il corpo dei popoli e delle nazioni fermenti nuovi. È un'eredità che sente? Sì, ogni sindaco di Firenze dopo La Pira sente quell'eredità. Il punto è farla rivivere nella contemporaneità. Questa è la vera sfida. Esatto. Senta, le faccio un'ultima domanda. Forse da ieri smetteranno di chiederle dove è Matteo, cosa fa Matteo, quando viene Matteo. Soddisfatto oppure un po' intristito? No, mi va bene, ma penso che anche Matteo sia più sereno. Sono più sollevato. Senta, c'è Mario Seghi che le fa una domanda. Sì, grazie. Buongiorno. Salve Seghi, buongiorno, ciao. Allora, ma non è che si rischia l'unanimismo? Cioè, adesso voi non avrete più nessuna critica costruttiva, nessun editoriale che dirà ma forse stanno sbagliando i renziani e così via, nessun programma televisivo che vi criticherà. Insomma, c'è uno stuolo di reggicoda interessati, pronti a diventare tutti. Siamo renziani tutti della prima ora, diranno. Ecco, non è un rischio per voi questo? Beh, senz'altro, ma io mi auguro davvero che non sia così, anche perché sono state proprio le critiche che ci hanno spinto, hanno dato l'energia, la molla. Certo, dobbiamo anche evitare l'errore opposto, e cioè questo tifazzismo per il quale noi italiani siamo i primi a sminuirci e ad avere poca fiducia in noi stessi. Quindi i due estremi sono facce di una stessa medaglia malata. Vedremo il lavoro. Buttafuoco? Buongiorno, eccomi. Allora, ciao. Firenze, ciao. Firenze è la città della cultura. Lei è un artista. Le faccio una domanda un po' sul versante del cattiverio. Sanare le ferite della memoria. Ancora non si sa la verità sulla morte di sull'assassinio di Giovanni Gentile. Però la domanda che le voglio fare è questa. Per esempio, riguardo al Maggio Fiorentino, farà qualcosa per rendere omaggio e ricordare chi ebbe l'idea, il genio, il guizzo di creare questa macchina meravigliosa di cultura riconosciuta nel mondo? Si riferisce a Pavolini, suppongo. Ad Alessandro Pavolini, sì. Riconoscere, quindi sanare le ferite della memoria. Ma io feci già uno sforzo e lo feci con tutto il cuore e una grande sincerità. Da Presidente della Commissione Cultura, dicendo che bisogna riconoscere a quel periodo e a quel regime il merito di aver fatto riforme importanti nel paese, e a Firenze con progetti culturali, il Maggio Musicale tra questi, Pavolini fu il fondatore per l'appunto. Va bene. Ciò non toglie ovviamente che le responsabilità storiche legate alle leggi razziali e a tutto quello che ne è venuto dopo non possono, come dire, voglio dire, le conquiste culturali, le riforme non possono essere un alibi per attenuare le responsabilità. No, però per sanare la memoria, appunto. Il fatto stesso, certo, che un gigante come Giovanni Gentile sia stato assassinato e che su di lui ancora gravi la coltre dell'omertà, ma è spaventoso. Vedrai che la puntata che faremo La storia siamo noi su Gentile risolverà tutti i problemi. E poi un libro da sì, La ghirlanda fiorentina. E siccome Nardella è uno che legge, sa benissimo queste cose. Suona anche il violino. Va bene, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Un agguato, colpi di Kalashnikov che fischiano, i giornalisti che scendono dalla macchina e si rifugiano in un fosso. Poi arrivano i colpi di mortaio e colpiscono Andrea Rocchelli e il suo interprete. Il giornalista francese che era con loro si salva perché era distante pochi metri. L'ultima volta che li ha visti, giacevano a terra, immobili. Vladimir Putin ieri ha chiamato il premier Matteo Renzi. Nel corso della telefonata, Putin ha sottolineato la necessità di porre fine immediatamente all'operazione militare punitiva nel sud-est dell'Ucraina e di stabilire il dialogo con Kiev. Inoltre, ha espresso il suo cordoglio per la morte del reporter Andy Rocchelli, che parlava così del suo lavoro. Se non produci niente, non sei indipendente, non fai roba nuova. E nel giornalismo quello che è già stato fatto è vecchio. Più il ruolo del reporter video o fotografico che doveva spedire i rulli o dettare col tele. La documentazione avviene con qualsiasi cosa, con un pezzo di carta o con una fotografia, con un sasso, qualsiasi cosa può essere una testimonianza. Facciamo delle storie, un prodotto più profondo, che richiede più tempo, che però poi riesce a raccontare meglio. Era Andy Rocchelli, un reporter freelance, di quel genere di uomini coraggiosi senza paura che dell'informazione fanno una religione senza se e senza ma. Stella Pende, tu hai lavorato molto con Andy, che tipo era? Guarda, a me già sentire la voce mi viene il magone. Io ho lavorato in questi ultimi 7 anni a fianco con Andy perché, come dire, l'ho forzato a diventare anche un cameraman, perché era un ragazzo, un fotografo, con un senso. Sì, no, lui era un fotografo straordinario, ma con me ha lavorato come fotografo e come cameraman anche, cosa che nessuno ha detto. Lui era un bravissimo cameraman perché aveva un senso dell'immagine incredibile. Ma è la passione per la notizia che l'ha ucciso? Sì, no, ma non è la passione per la notizia che l'ha ammazzato. Guarda, io l'ho scritto, Andy è un ragazzo, vedi, bisogna fare una differenza, bisogna dirlo finalmente, e cioè, quelli sono i fotografi e i cameraman, sono i veri reporter di oggi. È inutile, certo, che ci diamo tanta cosa. Il reporter, cioè voglio dire, noi possiamo stare in albergo, loro no, loro devono andare lì, dove succede la cosa, come dice Andy, perché devono respirarlo il pericolo per fotografarlo, soprattutto, no? Soprattutto devono farlo vedere. Certo, perché devono fermare la storia e quindi, cioè, senza esagerare, o la storia per come la intendiamo noi giornalisti, quindi non puoi stare in albergo e fartelo raccontare dallo Stringer. Senti Stella, ma c'è un'attrazione irresistibile per il pericolo in questa ricerca di testimonianza estrema, cioè la necessità della testimonianza, ma anche un'attrazione forte per il pericolo? Sai Giovanni, non ci credo perché Andy, per esempio, in tutti questi anni in Sudan, in Afghanistan, in Libano, durante le guerre, quando abbiamo lavorato insieme, perché lui era veramente un mio figlio professionale, in casa mia quando entro c'è una sua foto in Libia dei guerrieri, è sempre stato lui a dire no, lì non andiamo, lì non... Infatti io sono... Quindi era prudente, molto... era uno prudente anche, era coraggioso e prudente. Che... Era un ragazzo che pensava di dover fare il suo lavoro, ma non a tutti i costi. E poi voglio aggiungere una cosa. Sì. L'uomo che era con lui, Andrei Mironov, che tutti descrivono come interprete, perché non siamo dovuti a... Sì, giornalista. È un grandissimo intellettuale russo. Lui sì, lui era uno con cui ho lavorato a Beslan, eccetera, che era a costo di tutto. Andrei era straordinario, è stato nel Gulag, era un anti... Insomma, era un intellettuale che testimoniava la sua fede accompagnando i grandi giornalisti, i grandi reporter. Esattamente, bravo Gianni, come al solito hai trovato... Era un intellettuale che testimoniava la sua fede, siccome lui... sosteneva che l'Ucraina doveva essere Ucraina, quando ci si sono messi di mezzo i russi, lui ha preso senza una lira e partito, siccome erano legatissimi ed era una cosa. Sono andati insieme. Grazie Stella di questa testimonianza, ma intanto in Ucraina si combatte, la situazione è sempre più confusa e incerta. Davide Tarabelli, presidente di Nomisma Energia, ecco, una società di ricerca. All'origine di tutto c'è il gas? Ma forse non all'origine, però il gas conta molto. Ecco. Il principale importatore di gas della Russia è proprio l'Ucraina, con oltre quasi 40 miliardi di metri cubi, secondo la Germania. Germania che ne ha 30, poi l'Italia 25. Ecco, ma il controllo delle vie del gas che determina questo conflitto in qualche modo? In qualche modo sì, perché le grandi esportazioni della Russia sono sempre verso l'Europa e metà di queste passano per l'Ucraina. Ecco, ieri Putin però ha detto che se Bruxelles continuerà a ostacolare la Russia sul corridoio sud per le forniture di gas, allora potrebbe cercare delle alternative con paesi non dell'Unione Europea. Quali alternative può trovare? La Cina pochi giorni fa, il 21 maggio, ha siglato questo super accordo, alcune parti non sono ancora chiare, però sono 38 miliardi di metri cubi anno in confronto a quello di prima che andrebbero verso la Cina. E quindi l'accordo con la Cina potrebbe essere anche una soluzione alternativa per premere sull'Europa? Esatto, lo è già di fatto, anche se però la Cina è lontana, le infrastrutture non ci sono, la Cina non può permettersi i prezzi che paghiamo noi. Ci vuole del tempo, professor Tabarelli, per mettere i tubi anche solo per trasportarlo, no? Quanto potrebbe essere? Nella migliore delle ipotesi, non prima del 2018, già in passato ci sono stati dei ritardi. Senta professore, si parla sempre di dipendenza dell'Europa dal gas russo, e questo ne parliamo sempre. Però quanto dipende il gas russo dalla vendita all'Europa? Molto di più. L'Europa ha un peso per le esportazioni di energia sul proprio PIL del 18%. Noi, l'Italia, che è uno dei paesi che più dipende dalle importazioni di energia dall'estero, queste importazioni incidono sul PIL per il 3%. Ecco, l'Europa è più o meno in questa dimensione, molto molto inferiore. Quindi se la Russia non riuscisse più o non vendesse più gas all'Europa, il suo PIL avrebbe un contraccolpo fortissimo. Esatto, cioè è impossibile, loro sono molto più dipendenti dall'esportazione di energia, in particolare di gas, ma poi c'è molto petrolio, c'è un po' di carbone, perciò non possono farne a meno. Ecco, professor Tabarelli, ma di quanto è diminuita la domanda di gas rispetto all'anno scorso per l'Europa? Noi In Italia siamo sempre intorno al 5% in meno all'anno, però dalla crisi siamo già come 20%, cioè una cosa da guerra, da crisi, da crollo dovuto a un disastro. Ecco. Ma un disastro dovuto alla crisi economica oppure alla guerra? Guardi, no, un disastro, una crisi, la crisi economica è la causa principale, poi seguita però ci sono state anche cose positive, ad esempio l'aumento della produzione di fonti rinnovabili che ha consentito di risparmiare anche l'uso di gas. Ma dal vostro punto di vista il conflitto in atto è un conflitto destinato ad allargarsi oppure no? No, dal nostro punto di vista, che poi è quello dei prezzi del mercato, sì. Questo no, perché i prezzi del gas in Europa paradossalmente sono proprio scesi negli ultimi mesi, non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di una guerra, di un blocco, perché sarebbe un disastro talmente grave che non è neanche immaginabile. Ecco, professore, un'ultima domanda. Putin e Poroshenko, che è il nuovo presidente ucraino, raggiungeranno un accordo sul costo delle forniture di gas a breve, secondo lei, oppure no? No, difficilissimo, perché trovare facilmente 3 miliardi di dollari per l'Ucraina in questo momento è quasi impossibile. Ma non sono quelli degli aiuti europei? Ma sì, potrebbero esserci, però le condizioni che poi chiedono gli ucraini per il transito sono altrettanto esose, perciò le posizioni sono molto distanti per il momento. E allora? Allora arriveremo l'inverno con qualche problema, perciò dobbiamo essere un po' più attrezzati, per il momento non lo siamo molto. Quindi in inverno problemi di approvvigionamento per l'Italia? Sì, per l'Italia, per l'Europa, speriamo sì. Che ci sia il Nord Africa, dove invece anche lì la Libia non sta andando per niente bene. Beh, quindi lei fa una previsione di un inverno al freddo? Non proprio al freddo, perché poi abbiamo un po' di elasticità nel sistema, però con qualche difficoltà sì, con qualche maggiore costo. Noi siamo un sistema energetico per proprio confusione, per dipendenza a costi più alti rispetto all'estero, e avremo altri costi che aggiungeremo alle nostre bollette. Mix 24. Mesmuka, Ismi Khalifa. Allora Pietrangelo, oggi dove arriva questa musica? Oggi non ho avuto modo di leggere i giornali metropolitana, perché ho avuto una conversazione con un mio coetaneo, non lo conoscevo, un uomo di 50 anni vicino a me, che mi ha raccontato di come la sua vita abbia dovuto cambiare passo. Ha perso l'impiego, il suo lavoro, e quindi quella che era un giorno e un tempo era la sua casa di villeggiatura, la campagna, è diventata orto e giardino, e quindi ogni mattina da quell'orto e da quel giardino porta un giorno carciofi, per esempio, e oggi portava rose, però non andava a venderle, perché poi dalla metropolitana avrebbe preso un altro treno per andare ad Orvieto e consegnarle tutte queste rose all'altare del Tempio della Vergine. Questo è Battiato. Sai, non è mica una novità. No, così, giusto. No, per sapere, giusto. Sai, se hai bisogno di spiritualità, se hai bisogno di un contesto universale, poetico, aperto, dolce allo stesso tempo, dove vuoi rivolgerti se non in quella melodia che, come noti, non è in lingua siciliana. A noi ci ha fregato lo spirito, non la guerra, ricordalo. E bolle. Aria di casa, finalmente. Ah, il coro dell'Armata Rossa, che meraviglia. Oggi faremo un po' di tutto, vedrai. E c'è stata la telefonata, la sì. Sara Tardelli ha evocato, no? Prima nel caso tragico di Andy Rocchelli, e ha fatto drin, Palazzo Chigi, sono Vladimir Putin. Sì, è vero, gli ha fatto le condoglianze per il povero Rocchelli, ma di che cosa hanno parlato secondo voi? Di Ucraina, of course, e di gas, come ha anche detto il professor Tabarelli, giustamente, perché il gas è molto importante. E qualche giorno fa l'ENI, primo atto del nuovo amministratore delegato Descalzi, ha rivisto i contratti con Gazprom. Quello è molto importante. Per il prezzo del gas. È fondamentale, non importante, perché abbiamo ottenuto uno sconto sui prezzi legato al riallineamento dei prezzi a quelli del mercato. Perché adesso, come dice Tabarelli, anche loro devono vendere. Anche loro devono vendere, sono bravi, sanno vendere. Gazprom è una grande azienda, l'Eni pure, hanno fatto questo accordo. Ora, il tema è... Quello è un nostro interesse nazionale, quindi Renzi fa bene a difenderlo. Mi chiedo, così faccio una domanda di quelle un po' da geopolitica, ma noi dobbiamo sostenere tutto questo caos che gli americani hanno sviluppato in Ucraina a tavolino senza rendersi conto di che cosa esattamente stavano creando? Cioè, oppure volevano disunire l'Europa invece? Oppure, guarda, sui disegni di Washington nell'ultimo periodo c'è molta letteratura e poca certezza. E quindi, ma riuscirà il Presidente del Consiglio, questo è l'interrogativo, a fare una politica estera che non sia etero diretta dalla Casa Bianca? Io ho un'esperienza personale, la dico e poi vi lascio a voi la palla su questo. Cioè, quando feci una conferenza tempo fa a Washington, dove per mia fortuna trovai Victoria Nuland, che era co-speaker con me. E insomma, bel discorso, la democrazia, la libertà, nobili ideali. A un certo punto dissi, tutto bene, ma quando fa freddo io non trovo mai il rubinetto dell'oreodotto che da Washington arriva a Roma. Mi dispiace. Loro stanno cercando di costruirlo, per questo seminano un po' di zizzania, capito? Forse. Viene su all'alba quando si alza il sol, viene su all'alba quando si alza il sol, va giù. Vabbè, hai visto? Dall'Armata Rossa, United States of America, West Point. Questa è la Full Metal Jacket, tanto per essere chiari. Allora, West Point è molto importante oggi tenere, sintonizzarsi sull'Accademia Militare degli Stati Uniti, la più antica degli Stati Uniti, quella ufficiale, perché ci sarà un discorso di Obama. Tutti dicono che ci sarà una svolta nella politica estera. Ne dubito, però vorrei essere smentito in positivo. Anche perché la sua rivoluzione a Kiev, parliamoci chiaro, ci hanno messo un cioccolataio là. Era ministro con Timoshenko, ministro con Yanukovych, cioè è andato là, dai, gli va bene. Segnalo che il Financial Times ieri ha fatto un pezzo durissimo, molto critico sulla politica estera di Obama. Il discorso di West Point è molto atteso, la prestigiosa accademia che è nello stato di New York è sempre stato un crocevia per molti presidenti. Pensate, le fortificazioni sull'Hudson furono disegnate personalmente da George Washington nel 778. E Jefferson la rese la sede ufficiale. Da West Point sono partiti dei bravissimi generali: Eisenhower, MacArthur, Bradley, Arnold, Clark e il grande, mitico generale Patton. L'elite americana. Esatto. E la nostra elite rosa cosa ci racconta oggi? Altro che West Point, guarda qua. Sì, siamo tutte Barbie a quanto pare. In Inghilterra è esplosa la polemica contro un resort di super lusso, il Forte Village a Santa Margherita di Pula. Perché il Forte Village, Pietrangelo, senti bene se cosa ne pensi, propone due VIP experience per bambine dai 2 ai 10 anni, cioè le fanno sentire delle Barbie. Si fanno le unghie nella Spa 5 Stelle, c'è un centro tutto brandizzato Barbie. Insomma, al Forte Village danno la possibilità alle bambine di imparare a comportarsi come una vera e bella Barbie. E dire che il Forte Village è di una donna e del gruppo Marcegaglia. Quindi ste donne Barbie, eh? Canzoniere. Oggi 800 24 00 24, 349 238 6666, per chi indovina, vai. Non intendo divertire il mondo superbo, preferisco l'attenzione degli amici, per questo vorrei offrirti un tributo degno di te, degno dell'anima bella, ricolma di un santo sogno e viva e luminosa poesia, alti pensieri e semplicità, sia pure. Accogli con indulgenza questa raccolta, sono scherzi tristi, ideali, frutto svagato dei miei diletti. In attesa delle risposte al nostro canzoniere, ricordiamo che in questi giorni si è parlato del successo di Renzi, qualcuno l'ha paragonato a Fanfani, quando nel 58, dopo aver riorganizzato la Democrazia Cristiana, ha realizzato le prime grandi riforme del centro-sinistra. A noi Fanfani rispondeva così in un faccia a faccia dell'epoca. Eccoci dunque al signor Fanfani di Arezzo per la domanda finale, ecco. Senta, e c'è una cosa che non vorrebbe mai sentir dire di se stesso? Che non sono simpatico. Perché? Perché io credo di esserlo. È pronto, signor Fanfani? Mi sia consentito dire che io sono pronto. Ma in una battuta, se lei dovesse definire il fanfanismo, cos'è stato? Per quello che conosco io, l'incontro tra gli amici, i primi amici di Dossetti, di uomini coraggiosi che non hanno pensato se era conveniente o meno allo zoccolo di questo o quel cavallo far certi passi, ma hanno sempre pensato che era un dovere per un cristiano impegnato in politica, anche con sacrificio, anche con pericoli di accantonamenti, di dire il proprio pensiero e di cercare di far valere le valide proprie idee. Ma anche con tanto amore per il potere, però. Ma per la verità, lei si vede conosce poco bene la mia storia. Tutti dicono questo, ecco, rieccolo per pigliare il potere, no, rieccolo per pigliare nuove bastonate. Beh, tutto il resto lo racconterà Marina Milone nella puntata di Alberto Poti che andrà in onda nella seconda ora. Intanto un'altra bolla. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. Che meraviglia, che meraviglia, è tornato lui, Gordon Gekko. Allora, oggi tutti i must sono stati toccati. E Giovanni, negli Stati Uniti la paga di un amministratore delegato è 257 volte più alta di quella di un operaio. Parliamo della media. La paga media di un CEO di una grande public company è di circa 10 milioni di dollari. Ora, nel 2009 tutto questo era 181 volte più alto. Io non sono favorevole al tetto sugli stipendi, però certo, c'è il tema, c'è. Che è si aperto. Fa? Beh, andiamo a lavorare in America, facciamo Salamino. Saranno ludi cartacei, ma sempre adrenalina elettorale producono e caffeina politica, e il bilancino impegna non poco le trattative più che la diplomazia. Allora è stato totale, totale il silenzio di Pier Ferdinando Casini. Opportunamente interrogato a proposito del 4% recuperato da Alfano in alleanza con Casini, alla domanda, ma perché non hai rilasciato dichiarazioni, ha detto, perché avrei dovuto dire che di quel 4% il 3% è tutto mio. Intanto fa sapere Giuseppe Falci che Angela Merkel, incontrando Matteo Renzi, non gli ha fatto cucù, ma quasi, lo ha salutato così. Ecco il matador, un bel torero dunque. Ora certo noi ci chiediamo chissà chi in questa corrida ci avrà perso le corna. Detto ciò, dedica. Oh, torero, che si piazzato in capo stru sombrero, dice che si spagnolo e non mio vero. Grinda sac va a ballar, mescolando bolero c'ha c'ha chi vuol brugliatore. Questi pasetta si. Mix 24. Professor Daniele Doglio, allora anche questa settimana i media internazionali muovono molti molti soldi? Beh, diciamo che è un trend in corso ormai da 7-8 mesi, si sono spostati il Kazak sostanzialmente quasi 150 miliardi di dollari, quindi sono veramente cifre molto importanti. Ma 150 miliardi di dollari da dove a dove? Beh, diciamo, il grosso di questi miliardi riguardano gli operatori di rete, cioè telefonici, operatori internet, grandi televisioni via cavo. Con però una grande differenza rispetto a quel periodo della fine del secolo scorso, in cui ricorderà che venivano scambiati miliardi per comprare direttamente società di contenuto, no? Il famoso, certo, fusione American Online Warner, Vivendi, Polygram, NBC, Telefonica Endemol, eccetera, eccetera. Il risultato allora, come è noto, fu piuttosto disastroso, sì, perché sono due culture industriali che non si capiscono. Oggi invece sembra che abbiano imparato la lezione e puntano ad acquistare reti televisive specializzate a pagamento con importanti pacchetti di abbonati già fidelizzati. Ecco, cosa c'è dietro. Cioè puntano sullo sviluppo commerciale sostanzialmente. Vendere prodotti aggiuntivi ai loro abbonati. L'obiettivo è impossessarsi di una competenza molto speciale, quella che si chiama l'interfaccia con l'utente, la capacità di gestire il rapporto con gli utenti in modo da fargli scucire molti più soldi di quelli che si ricavano dagli abbonamenti di base, che più o meno sono sottoposti a concorrenza promozionale. Ecco, ma professor Doglio, allora vuol dire che i contenuti sono dimenticati? Non direi, dobbiamo abituarci all'idea che i contenuti non sono la sola cosa che conta, accanto ai contenuti ci sono sempre più servizi, le apps, gli accessi internet ad altissima velocità, telefonia di vario genere, persino le scommesse online e in qualche caso perfino il pagamento delle bollette. Però i contenuti, anche loro, in questo stesso periodo sono di nuovo al centro di un grande interesse. Le cifre sono più basse, ma fanno sempre impressione, insomma. Se facciamo qualche riferimento nel campo dei diritti sportivi, vecchi telefonici come British Telecom, che si è completamente rifatto, ha investito 1 miliardo per avere i diritti della Champions e dell'Europa League nel triennio 2015-2018. Anche broadcaster classici come la TV commerciale inglese ITV l'altra settimana ha speso 500 milioni di dollari per comprare quello che era un piccolo produttore americano, Litfield Entertainment, il creatore di questa serie Affari di famiglia, Pawn Stars, che è stata record di ascolti su History. Vabbè, in quindi Italia, insomma, i contenuti sono sempre poi alla fine il motore di tutto. I contenuti sono un pezzo importante, è interessante che ci sia in corso una specie di battaglia di riposizionamento, insomma i vecchi operatori di contenuto stanno cercando di rafforzare, investendo parecchio denaro, la propria posizione competitiva, diciamo. I nuovi stanno investendo, guardi Netflix, tra l'altro ormai è ufficiale l'ingresso, certo, in Francia, Germania e Benelux, che continua a rafforzare per esempio la sua offerta nel settore del documentario, spendendo molti finalmente, soldi. Finalmente, ha acquistato un documentario, sì, vincitore del Sundance Festival 2014, pagandolo quasi 10 milioni di dollari. E oramai i documentari vincono sempre più spesso anche i grandi festival. Lei l'aveva indovinato, il nostro canzoniere? Ci abbiamo Marcello da Roma. Marcello? Buongiorno. Buongiorno Marcello, 21 anni? Ho capito, sì, bene quello che, sì, mi dicono? Ah. Sì, Eugenio Onegin di Pushkin. Giusto, bravo Feltrinelli. Ha vinto il nostro Feltrinelli. Ma che fai tu? Dove sei? Io sono a casa, sono in giurisprudenza, ma sono un grande amante della letteratura russa, perciò non potevo, bravo, non saperlo. Ah beh, quindi sei un fan di Buttafuoco. No? Certo. Ah, per forza. Va bene, grazie, buono, grazie, studio. Cosa studi? Cosa hai detto che studi? Giurisprudenza. A che punto sei? Sono al terzo anno. Vabbè. Bravo, auguri. Professore, un'ultima cosa, insomma, se mi sembra di capire che però ci vogliono molti soldi per partecipare a questo nuovo mercato. Ci vogliono molti soldi, il rischio è che chi non ne ha rimanga fregato, ma la cosa interessante è che tutto questo barnum, questo Luna Park di investimenti, avviene in un momento in cui le risorse tradizionali non sono affatto in crescita, come sappiamo calano, la pubblicità fatica a riprendere, il canone più che essere quello che è non riesce a dare, persino gli abbonamenti alle pay non stanno sviluppando enormi. Beh, si sono un po' giuste, fermati anche loro. È un po' per loro, sono un pochino fermati, quindi non solo chi non ha soldi, per esempio la nostra Rai rischia di tagliare, rimanere tagliata fuori, certo, ma la cosa interessante è che si rischia una nuova bolla, perché tutti questi investimenti così colossali sono possibili per l'abbondanza di liquidità che c'è sui mercati a caccia di impieghi a cosiddetta alta redditività, cioè fondamentalmente dura, speculativi, esatto, e questo in genere non è mai un buon segno. Mario, bolla, però, in arrivo. Grazie, bolla professore, in arrivo. Bolla in arrivo. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, voi avete coprodotto, avete di nuovo vinto, avete coprodotto Le Meraviglie, che ha vinto il Grand Prix a Cannes. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Rai Cinema continua a vincere premi, è frutto di una nuova politica editoriale? Beh, è una politica editoriale che ormai si sta delineando da qualche anno, che si incentra soprattutto sul fatto di capire le potenzialità dei giovani talenti. Dei 200 film che abbiamo finanziato negli ultimi 4 anni, 100 erano opere prime e seconde. Ecco, ma è la vostra linea editoriale, l'interpretazione di una linea editoriale dell'azienda Rai? Io Io penso di sì, perché comunque un servizio pubblico si deve rivolgere a tutti i pubblici possibili e noi facciamo nella nostra linea tante storie diverse, con tanti linguaggi diversi, attraversando i vari generi cinematografici, e quindi ci rivolgiamo a tanti pubblici diversi, dal pubblico piccolo a un pubblico grande, rispettandoli tutti. Questo è il nostro obiettivo, che credo sia a forte connotazione di servizio pubblico. Ecco, dottor Del Brocco, ma voi quanti film avete coprodotto quest'anno? Guardi, noi ormai stiamo su un livello molto alto, finanziamo tra i 40 e i 50 film l'anno. Che per la nostra industria è un impulso fortissimo, rispetto anche all'indotto. E quante opere prime avete sponsorizzato? Guardi, negli ultimi 4 anni 100, tra opere prime e seconde, rispetto ai 200 film finanziati. Ma si allarga così il vivaio dei giovani, no? Beh, diciamo che è chiaro, cioè, che il cinema italiano può rinascere attraverso questa iniezione di fiducia e di credito anche. Ma sì, perché come ha detto un grande regista, Marco Tullio Giordana, in Italia il talento c'è sempre stato e lo sappiamo. Bisogna creare l'architettura affinché questo talento sia scoperto, allevato e sostenuto. E noi nel nostro piccolo lo facciamo. Ecco, dottor Del Brocco, ma internet e le nuove tecnologie stanno influenzando il vostro modo di progettare racconto, diciamo così? Ma sicuramente dobbiamo adeguarci per un certo tipo di prodotto a questi nuovi linguaggi. Intanto i nostri film vanno su tutte le piattaforme, questo significa allargare il pubblico del cinema anche a mezzi diversi. E poi stiamo anche producendo alcune cose proprio direttamente per il web. Peraltro abbiamo anche creato un canale, una piattaforma che è cinemachannel.it, dove ci sono 6 canali on demand. Ecco, però, dottor Del Brocco, abbiamo visto che il documentario sta riemergendo con grande forza, vince i festival e soprattutto viene, ce l'ha detto il professor Doglio prima, viene sponsorizzato anche dalle grandi company. Voi avete una progettualità sul campo del documentario? Noi anche i documentari ormai ne facciamo tra i 30 e i 40 l'anno, però chiaramente sono quei documentari non di reportage ma più cinematografici. Non per caso abbiamo vinto il Sacro Gra, che di fatto è un film documentario, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, e anche Tir di Fasulo ha vinto l'Aurelio d'Oro a Roma. Stiamo allevando anche lì molti talenti, ne produciamo appunto 30-40, e c'è un fatto nuovo, che stanno cominciando ad andare anche in televisione, sia generaliste che tematiche. Beh, questo mi sembra che per un servizio pubblico dovrebbe essere assolutamente un impegno primario. Non ne vedo ancora tanti in prima serata, non mi pare, ma speriamo che sia un impegno per il futuro. Senta, mi dice il titolo del prossimo film col quale vincerete qualche festival? Allora, anche per scaramanzia il nostro obiettivo non è quello di vincere, ma di dare visibilità ai nostri film al pubblico, della cultura italiana, d'accordo, e portarli all'estero. Detto questo, c'è un film a cui sono particolarmente legato e a cui tengo molto, che è il nuovo film di Matteo Garrone, Lucunto di Ligunti, da un libro del 600 di Basile, che, vista anche la generalità del regista, io spero che possa diventare un film molto importante. Grazie, dottor Del Brocco. Nella seconda ora, dopo il giornale radio, racconteremo, l'abbiamo detto, la storia dedicata a Mintolo e Fanfani, è curata come sempre da Marina Milone. Pubblicità.